cuore che ha acceso, chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Con me, tu mia luna, tu sei qui con me.